La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua puntuali come ogni sabato per raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, La rosa purpurea. Torno a parlarvi del cinema, soprattutto in sala, ma non solo, a farvi ascoltare le voci dei protagonisti del grande schermo e a giocare con voi con una serie di grandi film che potrete indovinare e vincere. Una settimana con alta intensità di novità al cinema, sono state ben 13 le pellicole che sono arrivate in sala in questa settimana, 11 nel weekend, e quindi, come dire, già una puntata di selezione questa qua, una puntata nella quale abbiamo dovuto fare delle scelte per proporvi quello che secondo noi è il meglio, quello che insomma ha senso essere raccontato. Però è anche una settimana molto mista, piena di cinema d'autore e di cinema di grandi star, piena di piccoli film che cercano la loro strada, di autori che stanno cercando una loro consacrazione e forse l'hanno anche già trovata. È il caso, per esempio, di Darren Aronofsky, il regista con il quale vogliamo aprire questa puntata della Rosa Purpurea per raccontare il suo Madre, col punto esclamativo, il suo nuovo film passato alla Mostra del Cinema di Venezia e adesso nelle sale italiane. Passiamo il nostro tempo qui. Voglio che diventi un paradiso. L'ha rimessa su tutta lei, ogni singolo dettaglio. E ha ridato vita a ogni singola stanza. Sei felice? Ti amo. Prego, si accomodi. Salve. Salve. È uno sconosciuto. Vogliamo farlo dormire in casa nostra. La storia di una coppia, un poeta che continua a rimbalzare contro la pagina bianca della sua crisi creativa, la giovane moglie che ha rimesso su quella che era la sua casa d'infanzia dopo un rovinoso incendio, la rimessa in piedi, avete sentito anche dalla clip, con le sue mani, ci tiene forse più che a ogni altra cosa. Sembra il luogo giusto dove ripartire, ma ancora una volta la casa, le pareti domestiche in un film, si rivelano essere invece un luogo alquanto ambiguo, soprattutto quando in questa casa, come avete appunto sentito nella clip che vi abbiamo appena fatto ascoltare, arriva uno sconosciuto al quale viene dato forse un'ospitalità inattesa e addirittura esagerata. È un film, questo Madre, che parte appunto come la storia di una crisi, di una coppia in crisi creativa per quanto riguarda lui e forse anche una crisi di coppia latente, che poi però diventa un'altra cosa, prende venature horror. Io saluto Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buonasera Franco a tutti gli ascoltatori. Boris, la questione della pagina bianca, della crisi creativa, era stata, e anche del racconto che diventa metaracconto, come era capitato per esempio recentemente anche nel film di Tom Ford, ricorderai, ancora una volta fa capolino in questo film di Darren Aronofsky, che, come dicevo, parte come un film drammatico e poi prende di questa location, di questa casa, la venatura forse un po' più legata almeno agli stilemi dell'horror, con una riuscita, diciamo così, che a Venezia ha molto spaccato la critica e il pubblico. Ci sono stati esaltati commenti e anche esaltanti di questo film, e altri invece sono stati altrettanti, direi, sono stati coloro che lo hanno di fatto stroncato, prendendo di mira l'esagerata fantasia e l'esagerato impatto visivo di alcuni momenti che soprattutto nella seconda parte connotano questo film. Tu da che parte ti collochi? Confesso nella seconda parte, cioè quello degli irritati nel girone di quelli che considerano Aronofsky un genio spirituale incompreso quando decide di fare questi film. Coppola ama molto, Francis Ford Coppola ama molto il detto one for them, one for us. Lo diceva negli anni '80 quando doveva recuperare da un fallimento della sua casa produttiva, e lui pensava di fare un film per il mercato, un film per i produttori e un film per lui come autore. La verità è che erano tutti capolavori nel suo caso. Ecco, nel caso di Darren Aronofsky, noi per avere The Wrestler e Il Cigno Nero ci dobbiamo sorbire anche The Fountain e madre. E il problema è che Aronofsky non decide in film come questi non di affrontare i grandi temi, ma inevitabilmente invece di cercare nei grandi temi una risposta alle proprie ossessioni. In questo caso il rapporto con i fan, il rapporto con chi guarda la propria arte da cui si sente cannibalizzato e la fine di una storia d'amore come quella con Rachel Weisz. Messe insieme queste due ossessioni sono diventate una bomba d'orologeria per il più grande sculp che abbiamo visto negli ultimi anni, in cui Jennifer Lawrence, una delle migliori attrici della storia moderna, è costretta in un personaggio altamente improbabile e scritto malissimo, e in cui si salvano solo Michelle Pfeiffer e Ted Harris per manifesta superiorità. Anche loro hanno personaggi improbabili, ma li rendono comunque dei gioielli. Però non basta per giustificare un'opera che appunto ha nella scrittura caotica la sua fonte di involontario umorismo, in una regia isterica una fonte di irritazione e infine un improbabile Bardem che sta cominciando ad avere la stessa parabola di Banderas, del connazionale Banderas, che davvero fa fatica ormai a entrare in qualsiasi ruolo. Devo dire, insomma, si può difendere Aronofsky quanto vogliamo perché è un grandissimo autore e ci ha regalato veramente delle storie e dei film straordinari, ma secondo me va anche protetto un autore da se stesso e questo è il caso. Salve. Salve. Sapevi che aveva una moglie? Ha delle foto tue nella valigia. Perché hai guardato nella valigia? Che cosa vogliono? Sono venuti per vedere me. Sei pazzo! Mi dispiace tanto. Fuori da casa mia! Fuori! Dare, dare, dare. Non è mai abbastanza. E potremmo parafrasare dicendo Darren, Darren, Darren Aronofsky, non è mai abbastanza. Questo è Madre, il film con cui abbiamo aperto la nostra rosa purpura. Ora la viabilità, fra poco invece vediamo se è andata meglio a un altro grande attore di grande popolarità come Richard Gere con il suo film L'incredibile vita di Norman. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue, come detto, con la nuova prova d'attore di Richard Gere. Il film si intitola L'incredibile vita di Norman, diretto da Joseph Cedar, che è un regista e sceneggiatore nato a New York ma di nazionalità israeliana, che mette in scena un personaggio archetipo della cultura ebraica, il personaggio in questo caso interpretato proprio da Richard Gere dell'ebreo cortigiano, cioè di colui che cerca i favori del potente di turno per mettersi al riparo poi nel prosieguo della vita da invidie e ostilità, un personaggio che troviamo nella cultura un po' di tutti i tempi, dalla Bibbia, vedi Giuseppe il Faraone, al Mercante di Venezia di Shakespeare, fino al Fagin dell'Oliver Twist, reinterpretato, dicevamo, in chiave moderna da Richard Gere e già si grida alla più buona, alla migliore prova d'attore di Gere almeno negli ultimi anni. Vediamo se è d'accordo con questa tesi la nostra Chiara Pizzimenti. Posso chiederle che cosa fa di mestiere? Le serve qualcosa? Io gliela trovo. Sarebbe un privilegio comprarle queste scarpe. Se compro delle scarpe devo pagarle. No, è già fatto. È tutto a posto? Sì, fantastico. Che cosa effettivamente faccia Norman è difficile da individuare. Non di più, dice il suo biglietto da visita, Oppenheimer Strategies. Norman crea contatti, commercia, mette in relazione. Norman attacca bottone con tutti. Norman sembra disperato senza accorgersene e non è nemmeno simpatico. Un faccendiere, questo può essere Norman. Dobbiamo raccogliere 14 milioni di dollari per salvarci dalla demolizione ed è qui che entra in gioco il nostro amico Norman Oppenheimer. Lei conosce Norman Oppenheimer? No, veramente no. Onorevole, ma che piacere. Il signor Taub le vorrebbe parlare, posso accompagnarla? È stato a casa di Arthur Taub. Sì, Questa è la mia abitazione privata, non può entrare così e sedersi alla mia tavola. Norman lo si comprende pian piano, andando avanti. È un topos della letteratura, è l'ebreo che tenta la scalata sociale, il cortigiano, è il mercante di Venezia, il film è teatralmente diviso in atti, si dà da fare per gli altri per salire di classe. Gli altri, politico israeliano in trasferta a New York compreso, lo usano, chi in buona, chi in cattiva fede, ma è lui il primo a credere nell'opportunismo e nello scambio di favori. Norman è Richard Gere in un personaggio non da Richard Gere, ma per questo migliore di molti altri nel passato, nella prima regia statunitense di Joseph Sadar, americano, cresciuto a Gerusalemme. Dice di aver accettato il ruolo perché di uomini così, alla ricerca di un miraggio, ne ha conosciuti tanti, perfettamente inadeguato negli abiti come nella postura, sempre in attesa di un riconoscimento in una vita incredibile, tra disfatte e trionfi. Con Gere ci sono ottimi compagni, Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg, Steve Buscemi. Lei è come un uomo che sta annegando che fa segno a un transatlantico. Sono un buon nuotatore. Sì. Non lo dimentichi. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato l'incredibile vita di Norman, che tra l'altro appunto è un film con tante sfaccettature, più di quanto non mostrino la locandina e il trailer, che tendono un po' a portarlo un po' troppo in commedia. È commedia sicuramente, ma con diversi lati e aspetti molto interessanti. Siamo arrivati al nostro gioco, prima di passare al prossimo film, che sarà Il Contagio, una delle due proposte italiane più interessanti di questa settimana. Dicevo, però, è arrivato il momento di giocare con un film che ha fatto la storia del cinema. Ok, centro, sta venendo dritto verso di me, porta di volo 30. Erist 31, per Allegheny 444, virata a destra. Chiama la 45esima ripetizione, senti che cosa diavolo stanno sperimentando. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo a La Rosa Purpurea, @radio24.it. Noi abbiamo due copie in Blu-ray di grandissimo livello che vi aspettano qui, è un'edizione davvero speciale. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Dicevamo cinema italiano con un film che si intitola Il Contagio, ma che se ne possa pensare, non si tratta di un contagio, diciamo così, dovuto a un'epidemia, film catastrofista. No, non si tratta di niente di tutto questo. Il Contagio è quello che mette prima contro e poi insieme e poi dà la forza di reagire a un gruppo di persone, un gruppo di personaggi che vivono in una vecchia palazzina della borgata romana. Io ci sono nato qua. Pensa che con Chiara si conosciamo da quando eravamo ragazzini. Tu prima di conoscere Simone non combinare tutti i colori. Mazza quanto è bella l'Arbara qua. Sta libero al posto da vigilante, se l'ha da me. Non ti pare che mi metta a fare la guardia? La prossima volta ti serve qualcosa. Chiedi mamma. E allora, storie e figure di vita in un paesaggio, dicevamo, suburbano, periferia di Roma, si svolgono appunto le esistenze di Chiara, Marcello, Mauro, Simona, di un boss di quartiere, di un professore, Vincenzo Salemme, che arriva all'improvviso a cercare di mettere un po' di ordine morale e mentale dentro queste esistenze. Un Vinicio Marchionni e un'Anna Foglietta, che tra l'altro fra poco sentiremo davvero in grande spolvero. Boris, potremmo chiamarla una tranche de vie de periferia? Ma sì, sicuramente c'è questo aspetto, tra l'altro da parte di una coppia di registi che la periferia la conosce bene, visto che con Interra Pax erano andati al Corviale, qua si spostano al Quarticciolo, tra l'altro in una realtà particolarissima, perché è una realtà abitativa assolutamente lontana dagli stereotipi della periferia, e in questo senso realizza in maniera quasi fisica il senso del film, cioè quello di un sottoproletariato che sogna, che vorrebbe avere di più e che viene contagiato dalla cocaina non tanto come sostanza stupefacente ed eccitante quanto come ascensore sociale. Molto interessante la difficilissima adattamento, il difficilissimo adattamento del libro di Walter City, perché di questo parliamo, che qui viene interpretato come voce narrante da un ottimo Vincenzo Salem, abbastanza imprevedibile in questo ruolo malinconico, perduto e anche piuttosto cinico. Molto interessante soprattutto nella prima parte, quando diciamo c'è la descrizione di una periferia diversa e di un popolo che non immaginavamo così, anche grazie a ottimi attori come Vinicio Marchionni, Anna Foglietta, un'ottima Giulia Bevilacqua che racconta forse il personaggio più interessante, una sorta di Alice nel paese delle meraviglie o nella periferia delle meraviglie, che trova la felicità in una casa piccola ma ben arredata, che però viene data con l'equo canone romano, ovvero c'è un equo canone molto molto basso ma con dei soldi sotto banco. Meno efficace forse la seconda parte, in cui ci si sposta verso Prati, quindi ci si sposta verso un quartiere bene, e lì qualche stereotipo in più arriva sia nel racconto dei personaggi sia nel racconto delle dinamiche sociali, e forse si perde un po' di quella potenza neopasoliana che invece c'era nella prima parte. Un film comunque decisamente interessante anche per la difficoltà della sfida, perché chiunque abbia letto il libro di Walter City da cui è tratto si chiede veramente come abbiano fatto questi ragazzi a raccontare questo film, e quindi insomma sicuramente un lavoro interessante e sicuramente un nuovo passo di Botrugno e Coluccini verso una crescita cinematografica che guarderemo sempre con voglia. E allora andiamoli a sentire Anna Foglietta e Vinicio Marchionni raccontarci la loro esperienza sul set del Contagio. È un film, un affresco, se si potesse dipingere sarebbe uno di quegli affreschi inquietanti alla Bosch, secondo me, dove ci sono mostri che mangiano teste, perché questo è il più forte fagocita il più debole. Si cerca di sopravvivere arrancando un po', a volte facendocela, coi malaffari, però insomma i più deboli in qualche maniera vengono sopraffatti. Però in questo grande affresco c'è comunque un monito, no? E anche uno spirito di vitalità. La periferia ha una risorsa gigantesca, che è quella in qualche maniera di darsi supporto l'un l'altro. Noi viviamo tutti quanti in questo palazzo che anche graficamente rappresenta un po' un'arnia, ci sono tante piccole celle dove quando queste api sono fuori e dialogano e si scambiano delle cose, allora si sentono vivi e protetti, poi quando si rinchiudono nelle loro invece piccole cellette succede l'imprevedibile, succede il tragico. Tutti sanno, tutti tacciono, ed è questo la grande farsa un po' pirandelliana, no? Che in qualche maniera viene rappresentata in questo film, secondo me grandioso, di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Vinicio, quanto manca il bello alle periferie italiane, a questa periferia romana che voi raccontate? Manca enormemente, secondo me. Poi ci stanno altre cose in periferia che cercano di fare in modo di sopperire alla mancanza del bello, però io credo che se uno cresce dai 0 ai 14 anni, 15 anni, 12 anni, senza aver mai visto un quadro, un film, un libro, aver mai letto una poesia, aver ascoltato della buona musica o non lo so, aver frequentato comunque il bello, questa cosa influisce molto, ovviamente negativamente. C'è da dire che la periferia comunque offre, come dire, un'umanità, ancora uno stato sociale che all'interno delle grandi città un po' si è completamente perduto, quindi sicuramente le persone che abitano lì ci stanno, ci vivono, sono anche orgogliosissime di essere originari di questi posti, come è giusto che sia naturalmente, non c'è nulla di male ad essere nato in periferia, lo sono anch'io, però naturalmente hanno, perlomeno quello che raccontiamo in questo film, quello che Walter City ha raccontato in questo romanzo straordinario, è la volontà, l'aspirazione, no? Di uscire da lì, di avvicinarsi al centro, di avvicinarsi ai soldi, di avvicinarsi ai palazzi bellissimi. È un'ambizione che avrà delle conseguenze enormi su tutti questi personaggi qui. Alla Foglietta, Vinicio Marchionni, alla Rosa Purpurea, linea adesso alla regia. Fra poco noi torniamo insieme e parliamo di un altro film italiano, è una settimana piuttosto intensa per il nostro cinema. Ritroviamo Pier Francesco Favino, protagonista insieme a Beppe Fiorello di Chi m'ha visto? La Rosa Purpurea. Prosegue La Rosa Purpurea con tutto il cinema che c'è in questo fine settimana. Abbiamo detto settimana con cinema italiano piuttosto in evidenza, almeno per quanto riguarda la quantità di film che arrivano. E qui siamo a una che potremmo definire una commedia musicale, nel senso che la musica è al centro del suo personaggio protagonista, quello di Martino Piccione, chitarrista pugliese, 48 anni. Però è sempre stato un sessionman, è sempre stato uno di quelli che stanno nell'ombra, che suonano la chitarra per gli altri, che non ha mai fatto, diciamo, il successo che è diventato popolarità. E allora il giorno che torna indietro nella nativa Ginosa, appunto in Puglia, la gente lo guarda e gli chiede: ma quando ti trovi un lavoro vero? Marti, sei tornato? E quando te ne vai? E io mo sto tornando. Ho suonato anche con i grandi musicisti, con Pausini, con Morandi. L'autografo? Dove te lo faccio? Sì, il tuo. Io volevo quello di Jovanotti, mica il tuo. Sono 30 anni che faccio il chitarrista, chi mi ha visto? Senti, ascolta il tuo manager. Se non piace, non piace. Ma perché non vieni a suonare la chitarra in chiesa? Sta cosa del solista non è perdere tempo. Tu devi continuare a fare il turnista. E allora avete sentito proprio l'incontro in Puglia con l'amico di sempre, Peppino Quaglia, che è appunto interpretato da Pierfrancesco Favino, che poi è appunto il suo possibile improbabile, direi, manager. Boris, c'è tanta allegria anche in questi brevi tratti che abbiamo sentito nella clip, c'è tanta allegria, c'è tanta musica, ci sono due istrioni come Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino che di solito quando vengono lasciati a briglia sciolta danno il meglio di se stessi. Danno il meglio di se stessi, forse in qualche modo bisogna anche però saperli tenere alle redini, perché se ha un difetto questo film ce l'ha proprio in particolare nel personaggio di Favino, che in alcuni momenti quando si dedica a quel talento incredibile che ha nel raccontare i dialetti, nel pronunciare i dialetti, riesce a fare cose inenarrabili, allo stesso tempo però in alcuni momenti invade, cannibalizza la macchina da presa di un Alessandro Pondi che forse è troppo inesperto per tenerlo a bada. Di sicuro è una commedia riuscita. L'unico problema forse del film è che di fronte a due ottimi attori, che tra l'altro si trovano sorprendentemente bene insieme, ovvero Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino, e anche a Mariella Gaviga, che è un'ottima controparte femminile, al contrario Pondi invece ogni tanto non riesce a inquadrare al meglio la storia, non riesce nemmeno ad avere quel po' di coraggio in più per fare il salto di qualità da una commedia efficace a una commedia realmente bella e magari sopra la media, insomma, alla Lascia di andare per intenderci, o alla Francesco Bruni. Niente di male, è un'ottima commedia commerciale, è una commedia che sicuramente soddisferà il pubblico e ce ne vuole. Se fosse questo il livello medio del nostro cinema, diciamo il livello medio commerciale, sarebbe un'ottima cosa. Bello che comunque dei giovani registi si provino con dei film di genere, con delle commedie, con grandi attori, forse dovrebbero avere anche un po' di coraggio in più. Nel complesso comunque è sicuramente un film che consiglierei appunto per un ottimo sabato sera. E allora questa era Chi m'ha visto con Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello. Noi abbiamo ancora un conto in sospeso, anzi un gioco in sospeso, e allora ascoltiamo la seconda traccia del film misterioso di oggi. Se è tutto pronto qui al comando base segreta, suonate i 5 toni. Beh, diciamo che è stato misterioso fino a questo momento, poi da questo momento in poi è praticamente come aver detto titolo, nome, cognome, indirizzo anche del regista. Comunque scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il titolo del film e il vostro indirizzo, che ci servirà per essere più veloci nella spedizione del film. Noi lo risolveremo prima della fine della trasmissione. Completiamo il triplete di film italiani della settimana con un film che arriva dalla Ken Zender, realizzatore dell'ultimo Festival di Cannes, dove ha avuto grandissimo successo, grandi applausi, grande commozione. Si intitola L'intrusa ed è diretto da Leonardo Di Costanzo. Vuoi restare qua? E perché, non è vero? Ma io oggi sta pure Rita con noi, io ce la mano a finire Mr. Jones. Rita! Mandonitevi i figli vostri, perché chi tocca a figli ma roba se la davri con me. E beh, uno può portare un grado il cadino da passare per cocco guai. Come gli orecchi l'umale essere. Ti senti? L'hanno picchiata a sangue, davanti alla bambina. Per lo shock con una palla di chiume. Marita che colpa ne ha? Suo padre adesso è in galera. Noi dobbiamo proteggere i bambini. E allora avete sentito nella clip un po' quello che è il clima del film. Siamo nella periferia di Napoli, in un centro ricreativo nel quale arrivano bambini che sono, come dire, almeno in quell'osi sfuggono da logiche di degrado che sono quelle spesso delle periferie delle grandi città, e in quelle di Napoli ancora più marcate. Le mamme portano questi bambini volentieri, almeno inizialmente, fino a quando in questa cornice si rifugia per cercare scampo e per cercarlo per i suoi due bambini, Maria, moglie di un killer arrestato per l'omicidio di un innocente, di una persona che appunto è stata una sorta di vittima del caso. E allora a quel punto l'istitutrice, che è la figura di Giovanna, figura straordinaria di questo film, interpretata da Raffaella Giordano, ha un bivio: aiutare chi spinge per dire i nostri bambini qui non sono più sicuri, o aiutare chi invece si è rifugiato in quest'osi. È un film, L'intrusa, che mette di fronte l'umanità alle proprie contraddizioni. Questo è un po' il senso. Ci mette di fronte come spettatore alla nostra responsabilità, alle nostre scelte, a come spesso quello che è accettabile fino a un certo punto diventa meno accettabile da un certo momento in poi, eppure non è cambiato niente. E questo è un po' forse la magia che riesce a creare Leonardo Di Costanzo, che è in collegamento con noi. Ciao Leonardo. Ciao, buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Allora, io parto da quell'applauso e da quelle lacrime alla Kenzen. Ero nella sala e ricordo un grandissimo coinvolgimento emotivo, e non è facile ottenerlo con un film così rigoroso e con una attrice così straordinaria, ma anch'essa con un'espressione chiaramente sempre molto, molto preoccupata. Come hai lavorato al cercare proprio di creare una tensione emotiva dentro il tuo film? Ma un po' quell'applauso, un po', giusto per fare una chiosa su quello che dicevi, probabilmente, ed è una cosa che ho verificato anche i giorni scorsi, sono dal Festival di Annecy, in qualche modo la storia è una storia che un po' che stanno vivendo anche loro. Se pensate che Maria, invece di essere la moglie di un camorrista, fosse la moglie di un estremista, diciamo, no? Coinvolto negli attentati. E quindi questa cosa loro si rivedono molto. Infatti è una cosa che un po' mi aveva detto il produttore francese la prima volta che aveva letto la sceneggiatura. Quindi è come ho lavorato con gli attori. Noi siamo partiti da una scrittura, inizialmente una sceneggiatura molto parlata, no? In cui tutti gli elementi, tutte le mamme, il preside, tutte le persone coinvolte esprimevano molto il proprio sentire, proprio lo esplicitavano e lo declinavano, no? E poi abbiamo pian piano epurato fino ad arrivare a questa questa sciuttezza, se vogliamo, e cosa faceva esprimere gli attori essenzialmente col corpo, con lo sguardo, no? Perciò Raffaella Giordano in questa è stata molto utile, anche se Raffaella viene dal teatro danza e quindi da un'espressione corporea anche molto ampia, molto così, quindi io le dicevo invece di contenere, che quindi doveva tutto mantenere negli occhi e nell'espressione. Con gli altri ragazzi, con tutti che tutti gli altri interpreti, che in parte sono bambini, in parte sono adulti, abbiamo lavorato molto come faccio sempre, cioè io con gli attori non professionisti o con poca esperienza faccio un lunghissimo lavoro di preparazione, diciamo il lavoro, il set, quando si arriva sul set ognuno dei personaggi sa esattamente che ruolo il proprio personaggio sta giocando nella storia, che cosa deve dire, e quindi in questo lavoro c'è anche un questo lavoro prima delle riprese, c'è anche un po' un'induzione a poter improvvisare secondo quello che succede in quel momento, però tenendo fede esattamente al personaggio. Quindi ci sono state delle piccolissime sorprese, belle, ma che però hanno servite ad arricchire i personaggi. Guarda che quella da qua dentro se ne deve andare. Fuori di qui per lei c'è solo il mondo da cui sta cercando di scappare. Questa è gente che capisce solo le maniere forti, Giovanni. Ma questa sembra partire malamente. È logico. Noi non facciamo differenze fra di loro. Questo è un posto per i bambini, per tutti i bambini. Leonardo, è anche un film sulla necessità di figure che spesso vengono, anzi in questo caso non spesso, vengono, come dire, etichettate come eroi, però qui sono eroi laici, sono eroi, sono anti-eroi, eroi che fanno l'eroe nella propria vita privata, ma di cui non si parla, di cui non si vede molto spesso l'esistenza e l'operato. Ecco, c'è anche un po' il racconto di questo tipo di figure, alla fine così essenziali in una società complessa come la nostra? Assolutamente, sì, sì. Io sono anni che avrei voluto fare un film su queste figure, su queste persone che fanno, che si dedicano agli altri, che lavorano su questi territori difficili, a contatto con il bisogno, con l'illegalità, molte volte, con... E che sono persone che si inventano giorno per giorno strategie per includere, no? Sono, per me sono degli eroi, sono perché sperimentano, perché immaginano come dover includere, perché sanno bene che il loro ruolo è fondamentale in un momento in cui, tra l'altro, diciamo che c'è un po' dappertutto, questo succede, che lo Stato un po' si ritira, non ce la fa più a entrare ad assistere come faceva fino a poco tempo fa, e quindi c'è spazio per queste persone che stanno lì quasi in un corpo a corpo quotidiano con il bisogno, con l'illegalità, e cercano di includere, cercano di fare il lavoro che certo dovrebbe fare lo Stato, però lo fanno loro. Esatto, però lo fanno, alla fine lo fanno loro. Grazie Leonardo, sì. De Costanzo, ricordo che L'Intrusa è in una bella quarantina di sale in Italia, quindi non avete scampo, dovete andarlo a vedere in questo fine settimana. Grazie Leonardo, ci sentiamo. Grazie a voi, buonasera. E allora, L'Intrusa di Leonardo Di Costanzo, adesso Viabilità, fra poco torniamo, c'è la volata finale, ma prima un altro film in sala, Alibi.com, e poi tutto il cinema da vedere in casa è la soluzione nel nostro game di oggi, fra poco. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finfarro, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Però pure la nuvola di granchio. La rosa purpurea. Eccoci qua, quarta parte della Rosa Purpurea, Alibi.com, l'ultimo film che ci manca fra le uscite di questo fine settimana, abbiamo detto film da weekend, allora film da sabato e domenica, Alibi.com dalla Francia, una commedia molto molto francese sulla storia di un servizio, di una sorta di istituzione, di un servizio per bugiardi cronici, gente che ti crea appunto l'alibi per coprire una scappatella, per spiare un dipendente un po' particolare. Insomma, per cercare di sviare tutte quelle rotture della vita che tutti vorremmo sviare. Buonasera, Romain. Sei ancora in ufficio? Mi hanno anticipato il meeting a domani. Volete evitare una cena con i suoceri? Ma dove cazzo sei finito? I miei ti aspettano! Nascondere una scappatella? O proteggere il vostro giardino segreto? Ci sei, Passerotto? Sì, ci sono. Tranquilli, ci pensiamo noi. La ditta marciava alla grande, avevo trovato l'amore. Insomma, tutto andava bene. tutto andava bene, ma questo uso del passato ci fa pensare che forse qualcosa non sarà più così. Boris, alibi.com, diciamo, trama a piuttosto esile, l'abbiamo detta, no? Un'agenzia che si occupa di creare alibi ai propri clienti. La commedia francese negli ultimi anni ci ha insegnato a diventare sempre più leggera, leggera, quasi impalpabile, quasi insostenibile nella sua leggerezza, ma tutto sommato a portare sempre a casa grande successo, soprattutto in patria. Solo pochi però sono i film che quando arrivano da questa parte delle Alpi rinnovano il successo. Sarà il caso anche di alibi.com? Questo dice molto, secondo me, sulla qualità del nostro pubblico e del pubblico francese, che a dispetto dei francofili italiani, soprattutto quei registi e quei produttori che tanto amano il sistema francese, il pubblico italiano è decisamente superiore a quello francese, e quindi in operazioni come alibi.com non cade. Se prima parlavamo di commedie che non avevano il coraggio di fare il salto di qualità e che alla fine andavano col freno a mano tirato e volevano viaggiare in sicurezza, alibi.com invece è la dimostrazione di come il sistema di finanziamento di francese, che coinvolge pubblico e privato, spesso dà la possibilità a molta produzione mediocre di andare in sala, avere anche successo, perché il pubblico forse non è molto migliore degli stessi registi, e però insomma non passare certamente alla storia. La commedia francese, come dicevi tu, spesso è stata esile, però sicuramente è stata ancora più spesso ben scritta e ben interpretata. Qui non c'è niente di tutto questo. Alibi.com dovrebbe intanto trovare un alibi per il delitto di essere così brutto. E in fondo, nonostante la trama sia esile, il soggetto non era neanche male, perché il fare un'azienda delle scuse false che uno deve inventare per andare a una partita, vedere l'amante, fare tutte quelle cose che non si possono dire in famiglia, in effetti poteva essere un pretesto divertente. Loro riescono a non farlo diventare, c'è forse solo un uomo che simula un pranzo o una cena con la famiglia per andare a tifare Ibrahimovic, che riesce a fare ridere, ma non sembra essere azzeccato niente in alibi.com, non la sceneggiatura, non il casting, non credi mai a quei personaggi che vengono raccontati, e neanche i tempi, che in una commedia sono tutto. Quindi in fondo, se proprio dobbiamo farci male con una commedia incompiuta, facciamocelo con quella italiana, perché quella francese, a mio parere, in questi ultimi anni è ancora peggiore. Sono qui per un amico sposato che ha conosciuto una ragazza con cui vuole passare un weekend. Come si chiama il suo amico? Il nome come si chiama? Jean-Claude. Finché non ho conosciuto mio suocero. Ecco papà. Buongiorno Jean-Claude. Gérard. E mia suocera. Ecco mamma. Questo weekend festeggiamo 30 anni di matrimonio e Gérard parte. Ma dai. Per lavoro. Però comincia a fare troppe domande. Boris, prima di salutarci, ricordiamo che c'è un appuntamento proprio in queste ore, in questi giorni, a Cerveteri, in uno scenario straordinario, quello della necropoli etrusca di Cerveteri, dove ti sei inventato il primo festival che sta in un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Insomma, io penso che un giorno dovrò portarti le arance in galera. Però detto questo, Boris, è una grande idea, soprattutto perché questo festival, in un luogo delle ombre, potremmo dire, riguarda le ombre per eccellenza, quella del cinema in pellicola, che ormai praticamente va scomparendo e che invece voi rivitalizzate in quel di Cerveteri. Beh, archeologia moderna dentro archeologia antica, potremmo dire, no? La pellicola che è l'archeologia, che per me diventerà poi riscoperta, come il vinile nella musica succederà anche nel cinema, che tornerà ed è già tornata, vedi Tarantino e Nolan. Fra poche ore ci sarà Dunkirk di Christopher Nolan, che è stato girato in 70 mm, e in questo caso si riapre il cinema moderno di Cerveteri, però sì, è un luogo evocativo quello della necropoli, è un luogo straordinario, non potevamo non cominciare come abbiamo fatto giovedì scorso con la Notte dei Morti Viventi, perché chiaramente era uno sfizio, un divertimento che non potevamo evitare, oltre che voler raccontare un maestro che ci ha recentemente abbandonato, e proprio in quell'occasione, 3 giorni fa, abbiamo deciso anche di istituire il premio Luca Svizzeretto, che ricorderete, insomma, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione. È un critico cinematografico che è venuto a mancare il 28 settembre dell'anno scorso, e proprio il 28 settembre il primo premio Luca Svizzeretto è andato a Nicola Nocella, uno degli attori migliori in questo momento in Italia, che abbiamo visto in Isi, che è un film che a noi è piaciuto moltissimo e che ancora è in sala, e che insomma sarà il primo di tanti attori, perché Luca Svizzeretto era apprezzato soprattutto dagli interpreti del cinema, era amato soprattutto dagli interpreti perché li indagava con la sua sensibilità umana e professionale in maniera molto profonda. È stato un festival, insomma, in cui ci siamo presi tanti rischi, speriamo di tornare nella necropoli da vivi, ovviamente, e di divertirci. Assolutamente da vivi, come sempre. Noi intanto ti aspettiamo settimana prossima, Boris, per raccontarci il cinema negli schermi, quelli normali, quelli che non stanno ancora nelle necropoli. Grazie ancora, Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora siamo arrivati adesso al disvelamento, diciamo così, dei vincitori del nostro DVD Game della scorsa settimana. Tutti questi prodigi dell'arte, dell'ingegno umano, tutti assolutamente insignificanti di fronte all'unico quesito importante: da dove veniamo noi? E allora, si trattava di Alien Covenant, il film con cui abbiamo giocato 7 giorni fa. Lo hanno indovinato per primi Renato Rodaro di Bovisio Masciago, provincia di Monza Brianza, e David Bressani di Mimis, provincia di Udine. Sono loro che vinceranno e riceveranno il Blu-ray di Alien Covenant, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Alien Covenant sembra un cerchio che si chiude, un tentativo di fondere i temi forti che hanno sempre affascinato Ridley Scott, dal dio distruttore all'indomabile istinto materno, dalla mascolinità che trova grazia solo nell'ambiguità dell'androide all'eterna domanda perché devo morire, perché sono a termine. È un film piuttosto prevedibile nella successione narrativa, ma sicuramente visivamente sfolgorante, caratteristica che il Blu-ray mantiene e restituisce perfettamente. Il disco è veramente ricco anche di contenuti speciali, segnaliamo tra questi qualche commento di Ridley Scott, insomma è sempre interessante sentire cosa ha da dire un regista riguardo al suo film, segnaliamo 12 scene eliminate che non sono brevissime ma arrivano a 18 minuti. Diamo un'occhiata anche alle segnalazioni televisive, Giulio, partendo da domenica 1 ottobre, quando un grande western di Arthur Penn, Missouri, andrà in onda su Rete 4 alle 16:10. Sì, uno scontro tra titani, tra le praterie del selvaggio West, ci sono Marlon Brando e Jack Nicholson, ovviamente due giganti, due generazioni a confronto, due modi di intendere, vivere e abitare lo spazio cinematografico. Due modelli di cinema, appunto, come i due personaggi che interpretano. Da una parte abbiamo un professionista alle maniere spicce, assoldato per eliminare un ladro, un branco di ladri di bestiame, e secondo truce e spietato, fintamente fesso e all'occorrenza decisamente sleale, come conviene a un malvivente. Dopo Piccolo Grande Uomo, Arthur Penn continua a ridefinire i perimetri del western contro il classicismo e lascia che la macchina da presa passi lunghe sequenze, interminabili carrelli sulle maschere di ferro di Marlon Brando e Jack Nicholson. Invece mercoledì 4 ottobre, sempre su Rete 4, ma alle 21:15, in prima serata, è l'occasione di rivedere un grande film di Steven Spielberg come The Terminal. Sì, è una sorta di apologo morale quello di Victor, che è giunto a un passo dall'American Dream e viene bloccato a tempo indeterminato nella terra di nessuno di un aeroporto. È un film veramente in cui ci si può leggere di tutto, compreso il ritorno a un cinema favolistico e dal sapore chapliniano, dove i puri di spirito sono i buoni, sui quali la società fa rimbalzare i colpi peggiori e bassi. Tom Hanks fa un lavoro straordinario sulla sua dimensione da immigrato dell'est e lavora sulla fisicità come se fosse un Charlot. insomma, un film che racconta moltissimo la contemporaneità degli Stati Uniti, allora come oggi. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. E l'appuntamento va settimana prossima. Per chi si trovasse nei dintorni di Piacenza, Fidenza, soprattutto Salso Maggiore, fra un'oretta ci vediamo a Salso Maggiore, dove c'è l'intervista pubblica con Maurizio Nichetti sulla sua autobiografia nell'ambito del festival Mangia Cinema. Chi vuole ci aspetta, si ascolta Nichetti e si mangia sicuramente molto bene. Un saluto da Franco D'Assisti.